E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Amici di Radio 24, ben ritrovati per una puntata di Strade e Motori che mescola insieme il futuro prossimo dell'auto ed il passato glorioso ed illustre che però è ancora ben piantato nel presente. Parleremo infatti di auto elettrica con il lancio di un piano Renault per le prime auto elettriche a Milano e poi vi racconteremo la storia di Pasquale e della sua piccola, una splendida 500, quarantenne, insieme stanno girando l'Italia. Un'Italia che in questi giorni si gode il ritorno al successo della Ferrari nel mondiale di Formula 1 e ne parleremo più tardi, così come non mancherà uno spazio dedicato ad un'iniziativa secondo noi molto interessante che vuole aumentare e facilitare il carpooling in autostrada. Dunque partiamo subito dalle novità che riguardano l'elettrico. L'auto elettrica ormai è una realtà e la sua diffusione sul mercato non è proprio dietro l'angolo, ma ormai è prossima. Nel giro di un paio d'anni infatti saranno in vendita o a noleggio i primi modelli di veicoli interamente alimentati ad energia elettrica con emissioni di anidride carbonica, considerando tutto il ciclo della produzione, ridotte del 50% rispetto alle vetture che oggi sono considerate più verdi. Un bel voto per l'Italia dal punto di vista dell'attenzione all'elettrico arriva a sorpresa dai francesi di Renault, che hanno presentato nei giorni scorsi l'accordo con il Comune di Milano e con A2A, l'azienda elettrica milanese, per la sperimentazione di 60 veicoli elettrici che saranno alimentati da 200 colonnine energetiche che il comune creerà in città. Ne parliamo con il presidente di Renault Italia, Jacques Busquet. Presidente, la scelta di Milano e Brescia come città pilota per questo esperimento, innanzitutto perché per Renault? Infatti perché abbiamo avuto da già tanto tempo un interesse molto alto da parte di queste regioni in generale, di queste città in generale, per questo che siamo riusciti l'anno scorso a mettere in atto questo progetto. Quindi direi che la risposta è perché è qui che abbiamo avuto da subito un interesse enorme questa soluzione. In generale in Italia vede un interesse per il mercato dell'auto elettrica? Sì, dovete sapere che infatti di tutte le esperienze che sono state fatte nel passato già sul tema dell'elettrico è l'Italia che è sempre stata alla punta per queste sperimentazioni, diciamo, e questo è un segnale molto forte perché vuol dire che il paese è già maturo, è già molto positivo rispetto a una soluzione di questo genere. Quindi non siamo stati sorpresi di vedere che oggi tante regioni e tante città ci hanno contattato per mettere a posto dei progetti come quelli di Milano-Brescia. Presidente, 4 vetture fanno parte della flotta, tra virgolette, zero emissioni. Quali sono le caratteristiche? E poi un'altra cosa, voi puntate molto sul fatto che queste auto sono normali, sono auto come le altre. Sì, assolutamente, perché ogni tanto si immagina un po' una vettura elettrica come un giocattello, una vettura piccolina che non va avanti, che è un po' strana, magari un po' fragile anche. E per questo che abbiamo puntato subito sullo sviluppo di una gamma completa, con, l'avete visto oggi, una berlina familiare, quindi già una vettura di una certa dimensione, già un certo peso, un utilizzo abbastanza complesso, un veicolo commerciale, il Kangoo, e su questo puntiamo molto perché lì c'è un fabbisogno enorme di ridurre le emissioni legate al trasporto merci in città. E poi abbiamo anche sviluppato, e siamo il primo costruttore a averlo fatto, abbiamo sviluppato 2 altri modelli solo per la tecnologia elettrica, che sono, come dicevo, la Zoe, che è un utilitario del segmento B, e un biposto che piacerà molto ai giovani, la Twizy, che sono 2 vetture sviluppate unicamente per ricevere un motore elettrico. Non ci saranno versioni termiche di queste vetture, quindi a gamma completa che vuol parlare a diverse tipologie di clienti. E per questo che per noi è il segnale forte che noi abbiamo fatto una scelta strategica in questa direzione, puntando a coprire una grande diversità di clienti e una grande fascia del mercato. Al di là dei progetti pilota di Milano e Brescia, quando queste vetture saranno sul mercato, le 4 che fanno parte del progetto ZE? Allora, prevediamo di lanciare la commercializzazione in volumi dalla seconda parte del 2011. che può sembrare lontana, ma infatti per noi è domani mattina, perché naturalmente bisogna organizzare la produzione, pianificare i volumi, preparare i contenuti del prodotto, i prezzi, eccetera. Quindi veramente un progetto molto attuale da noi, e quindi infatti dalla fine 2011 per tutto l'anno 2012 sarà veramente il momento chiave per noi per lanciare queste macchine. Per concludere, Presidente, l'obiezione che, diciamo, ci si pone spesso quando si parla di auto elettrica è: sì, va bene l'ambiente, però costano tanto in questo momento, soprattutto perché le batterie al litio costano tanto. Ecco, dal punto di vista dei costi può anticiparci qualcosa? Allora, effettivamente è molto importante, perché questa soluzione deve essere competitiva con una soluzione a una macchina a motore benzina o diesel, se no non andrebbe avanti. Allora, abbiamo come obiettivo, e siamo già ben avanzati in direzione di questo obiettivo, di avere un costo, un prezzo quindi per l'utilizzatore finale, di una vettura elettrica a livello più o meno dell'equivalente con un motore diesel. Questo è già importante. Poi c'è il fatto della batteria, come l'ha detto, è una batteria che ancora oggi, con la generazione che abbiamo, costerà un certo numero di migliaia di euro, diciamo 5-7 mila euro, che è una somma che naturalmente non si tratta di vendere al cliente, e per questo abbiamo definito un concetto molto semplice, e di affittare l'utilizzo della batteria spalmando i costi della batteria su tutta la durata della sua vita, che sono 10 anni. Quindi naturalmente affittando ogni mese l'utilizzo di una batteria, prendendo il costo di 10 anni, fa un canone mensile che sarà di poche decine di euro, diciamo, che è un costo molto ragionevole, perché infatti rappresenta né più né meno che il risparmio che si farà tra il costo dell'elettricità e il costo della benzina o del gasolio. Quindi la soluzione deve veramente avere una soluzione competitiva con gli altri motori, che è un fattore chiave di successo, e siamo veramente fiduciosi che questo business model ce l'abbiamo quasi in tasca. Era dunque il presidente di Renault Italia Jacques Busquet ai microfoni di Radio 24. Adesso voltiamo pagina, perché dobbiamo fare degli auguri un po' speciali di buon compleanno. Eh sì, bisogna fare degli auguri di compleanno un po' in ritardo alla piccolina, alla piccola, avete capito bene. Facciamo per una volta uno strappo alla regola, brindiamo al 40° compleanno della piccola, che non è una donna ma una splendida 500, ed è la protagonista della storia che vi raccontiamo adesso. L'altro protagonista si chiama Pasquale Tedesco, ha qualche anno in più della piccola, e del 26 febbraio è impegnato in un giro d'Italia a bordo della sua 500, un giro d'Italia che si completerà a Roma il prossimo venerdì 26 marzo. E allora noi ci colleghiamo proprio con Pasquale Tedesco. Buona domenica, Pasquale, grazie per essere con noi. Salute, salute a tutti. Siamo nei pressi di Milano, siamo usciti adesso da Monza, dall'autodromo. Avevo cercato di regalare anche questa emozione alla piccola, però problemi tecnici, siamo stati ai lati. Va bene, senso da parte dei partecipanti. Pasquale, com'è nata questa idea di fare questo giro d'Italia in 500, con la tua 500? Beh, è stato un dono verso una macchina che ha rappresentato per me e la mia famiglia un periodo, da quando ha cominciato a nascere la mia famiglia. Questa macchina ci ha accompagnato in una serie di viaggi, emozioni, viaggi sia estivi che invernali. Man mano si è invecchiata, però era il periodo dell'inquinamento, per cui c'erano nei centri storici, non si poteva entrare. Ho pensato di regalare l'impianto a gas, che mi ha dato la possibilità di riprenderla completamente. Quindi gli hai montato su un bel impianto GPL e la macchina è come nuova? Sì, e adesso abbiamo fatto circa 4.500 km a GPL, benissimo, sia nei centri urbani che all'esterno, sempre su strade statali, non tanto autostrade, perché l'autostrada stanca un pochino la piccola, però va bene. Senti, so che sul tetto della tua piccola c'è una bandiera molto particolare, no? Sì, è una bandiera che nei momenti più importanti tiro fuori, perché è stato un regalo da parte del nostro Presidente della Repubblica, che su mia richiesta, quando gli ho detto che facevo questo giro, gli ho detto che andavo in giro per l'Italia, avrei avuto proprio il desiderio di portare la bandiera italiana nei posti più importanti, e così sto facendo. Sono stato a Trieste, in Sicilia, verso Bari, verso, insomma, tutto un percorso percorso di, però fino ad oggi di 4.500 chilometri. Sta continuando, andremo in Sicilia, andremo adesso in Sardegna, l'isola della Maddalena e poi a Caprera perfino. A trovare Garibaldi. A trovare Garibaldi. Senti, diciamo è il percorso di una storia d'Italia, sì, questa qua infatti. Della bandiera che ci collega alla storia della nostra Italia, diciamo. Poi sappiamo che insomma ci sono anche dei compagni di viaggio che ti accompagnano e delle persone che trovi nelle varie tappe che ti fanno compagnia. Perfetto, sì. Sono compagni di tutte le regioni che ho cercato di creare un collegamento così ideale di tutte le realtà regionali e nei viaggi che sto facendo loro mi raccontano le loro realtà, le loro perplessità e lì incontriamo strada facendo anche altri diciamo conoscenti, amici che raccontano. La piccola sta raccogliendo tutte queste belle notizie e forse un giorno le potrà raccontare in via ufficiale a tutti voi. C'è una fotografia che non dimenticherai, che porterai sempre con te, quella che ti ha più emozionato, almeno finora, e invece una segnalazione di qualche spicchio d'Italia un po' maltrattato. Sì, quella che potrebbe essere il sentimento mio personale legato a Trieste. Trieste che è la città che da piccolo non ho mai potuto vedere, da grande, dopo 80 anni, ho potuto riconoscere in questa città forse l'essenza della mia idea di patria. E poi le coste, ovvero le strade più rovinate da incuria, ovvero da costruzione un pochino assurda, sono piccoli tratti, ma non tutte. L'Italia è tutta bella. E posso concludere dicendo che tanti tratti d'Italia sì sono stati rovinati, però l'insieme dell'Italia nelle sue strade, nei suoi paesaggi sono veramente paesaggi belli e armoniosi. Allora Pasquale, noi ti lasciamo al prosieguo del tuo giro d'Italia, però prima di lasciarci vogliamo anche un saluto da parte della piccola. Se è lì vicino a te magari facci sentire un saluto, un colpo di clacson. Un colpo di clacson oppure l'accensione. Eccola lì. Eccola lì. Va bene, allora sta facendo in questo momento sta compiendo i 4.000 chilometri di contachilometri, 4.000 dalla partenza. Guarda, sicuramente tanti ascoltatori di Radio 24 che magari ti incontreranno per strada nel prosieguo del tuo giro ti riconosceranno e ti saluteranno, insomma faremo parte anche noi di questo per quello che possiamo di questo Giro d'Italia davvero meraviglioso. Grazie a Pasquale Tedesco, buon viaggio allora. Grazie. E adesso il consueto spazio dedicato alle notizie della settimana dal mondo in movimento, poi parleremo di carpooling, cioè la condivisione dell'auto su un particolare percorso in autostrada. Nonostante la fine, nella maggior parte dei paesi, degli incentivi statali, le immatricolazioni in Europa a febbraio sono aumentate del 3,2% rispetto a un anno fa, per un totale di 974.000 unità. L'auto più venduta resta la Volkswagen Golf, ma cala il vantaggio sulla seconda, la Ford Fiesta. Volkswagen, ancora il gruppo leader per vendite, ha perso l'1,7%. Quinta, Fiat, la cui quota sale del 5,1%. Le vetture italiane viaggiano meno rispetto a 15 anni fa. Secondo uno studio dell'Istituto di Ricerca Internazionale LCDP, la percorrenza media annuale è calata di 3.800 km. Il calo dovrebbe comportare un rallentamento nella sostituzione delle autovetture e anche una diminuzione degli interventi di manutenzione. Sono illegali e vanno quindi sequestrati gli autovelox dati in appalto a ditte esterne, tanto più quando il costo del noleggio è parametrato alle prevedibili infrazioni annue. Lo ha sancito la Corte Costituzionale, stabilendo che le apparecchiature devono essere gestite direttamente dalla Polizia Stradale, che non può delegarle a terzi. 2030. Addio incidenti stradali. È l'obiettivo che si pone General Motors, che il 24 marzo, durante l'Expo di Shanghai, presenterà NV, un nuovo concetto globale di veicolo per la mobilità urbana. La sigla NV sta per Electric Networked Vehicle. Nella visione di General Motors, la mobilità stradale potrebbe evolvere, tra 20 anni, in una rete di veicoli elettrici connessi tra loro, in modo da evitare traffico e incidenti. A Strade e Motori, lo sapete, parliamo spesso di mobilità sostenibile e dei possibili interventi che possono aiutare a decongestionare il traffico e, perché no, anche a rendere un pochino più respirabile l'aria. Oggi approfondiamo un aspetto del cosiddetto carpooling, cioè la condivisione dell'auto, il sistema che inizia a prendere piede anche qui da noi e che consente a più utenti dell'auto di mettersi insieme e di utilizzare una sola vettura risparmiando e inquinando di meno. Perché c'è un'iniziativa molto interessante ideata da Autostrade per l'Italia. Ne parliamo con il responsabile marketing di Autostrade per l'Italia, Massimo Iossa. Ingegner Iossa, buona domenica, grazie per essere con noi. Buona domenica a lei, dottor Di Scienza, buona domenica ai radioascoltatori di Radio 24. Da quale esigenza è nata l'idea di istituire questo servizio di carpooling su due autostrade molto particolari della nostra rete? Diciamo che è un progetto che abbiamo lanciato alla fine dell'estate scorsa e il motivo per cui l'abbiamo fatto non è un motivo, spesso uno pensa, un motivo economico, un motivo particolare, ma nasce da un'esigenza, chiamiamola anche etica, cioè sappiamo che in quell'area le autostrade sono una realtà forte in termini di impatto complessivo e quindi sentivamo l'esigenza di fare qualcosa a favore di coloro che tutti i giorni percorrono le nostre autostrade. Adesso entriamo nel dettaglio, ovviamente. Innanzitutto, perché avete scelto, come avete individuato queste due autostrade, che sono la 8 e la 9? Sì, i motivi sono due. Il primo è che sono due autostrade che sono interessate da lavori di ampliamento. L'altro aspetto è che il carpooling funziona in zone di alto pendolarismo. Ebbene, in Italia sicuramente l'area di Milano e quindi tutto il tema Milano con Varese, con Como e tutta la zona interessata è sicuramente il punto di partenza per sperimentare un progetto come il carpooling nel nostro. Entriamo nel dettaglio, come funziona il carpooling in autostrada sulla 8 e sulla 9? Ci sono due aspetti anche in questo caso, c'è un aspetto di preparazione del viaggio e quindi abbiamo costruito un vero e proprio sito internet che i radioascoltatori possono trovare all'indirizzo www.autostradecarpooling.it sul quale organizzare il proprio viaggio, cioè trovare altri compagni di viaggio o offrire un passaggio a chi fosse interessato a percorrere la stessa tratta. Quindi il primo aspetto è registrarsi su questo sito con tutte le informazioni che servono, punto di partenza, punto di arrivo, giorno in cui si viaggia, orario e così via. Poi invece abbiamo fatto anche interventi in autostrada, cioè significa che chi percorre l'autostrada e arriva al casello di Milano Nord in quattro persone ha diritto ad uno sconto, troverà una pista dedicata, uno sconto significativo che è pari quasi al 70% nel costo del pedaggio. Non male, insomma, anche le tasche da questo punto di vista ci guadagnano. Vogliamo dare qualche piccola informazione utile a chi decide di utilizzare questo sistema? Ad esempio, bisogna stabilire subito, immagino, quale auto si utilizza, se si vuole condividere la propria o se invece si fa a turno, insomma, come funziona? Vuole dare qualche consiglio? Sì, su internet i nostri utenti vanno, dico anche un numero, ad esempio in questo momento ci sono una sorta di cerco e offro sul sito. Sì. 1500 viaggi disponibili, quindi in realtà qualunque orario, qualunque tratta, qualunque città di partenza e arrivo è molto probabile che chi fosse interessato troverebbe qualcuno disposto a offrire un viaggio. Quindi bisogna andare a registrarsi e il primo aspetto è dire se si è viaggiatori, cioè se si cerca un passaggio, o se si è guidatori, cioè se si offre la macchina. Si specificano anche, e questo è un aspetto che abbiamo migliorato dopo qualche mese, quelle che sono le caratteristiche di chi guida, perché in realtà è anche un fenomeno secondo noi interessante di socializzazione, quindi dire se si è fumatori o no, che tipo di musica si ascolta, spesso si chiariscono anche gli hobby delle persone, anche perché il viaggio deve essere un viaggio non soltanto che permette di risparmiare, ma riteniamo anche piacevole, quindi certo. Viaggiare con persone che hanno interessi comuni è certamente preferibile rispetto a persone che magari hanno esigenze e anche caratteristiche diverse. Allora le diamo appuntamento alle prossime novità che Autostrade per l'Italia vorrà riservare a chi utilizzerà questo sistema semplice ma rivoluzionario, ecco, possiamo definirlo così, come il carpooling. Grazie ingegner Iossa, responsabile marketing di Autostrade per l'Italia, ospite di Strade e Motori. Buona domenica ingegnere. Grazie a lei, grazie a tutti. E dalle autostrade italiane passiamo ai circuiti internazionali di Formula 1, perché è arrivato il momento di analizzare un po' a freddo, con calma, cosa ha detto questo avvio di mondiale 7 giorni dopo l'inizio del campionato. Restano negli occhi ovviamente le immagini del successo di Fernando Alonso, della sua Ferrari in Bahrain, quindi una riflessione è che chi meglio di Carlo Cavicchi, condirettore di Quattro Ruote, può fare per aiutarci un po' a capire meglio se di vera gloria in Bahrain si trattò. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Sì, di vera gloria è sicuro, e quando una squadra parte, fa doppietta, non ha problemi di nessun genere e vince, questa è per forza vera gloria. La notizia che deve tranquillizzare abbastanza gli appassionati tifosi della Ferrari è che la storia insegna che nel 90% dei casi chi vince la prima gara poi vince il mondiale. Sì, quindi... E qui tocchiamo ferro però, direttore. Sì, però la statistica lo dice, questo non è un discorso di cosa, diciamo che è sempre meglio il buongiorno si vede alla mattina, è meglio partire vincendo che no, quindi è molto importante. Poi direi che ha stabilito nel suo, già in una prima gara, delle gerarchie interne. La Ferrari puntava con Alonso ad avere il pilota guida faro, quello che dai tempi di Schumacher non aveva più avuto, e quanto pare sembra già dalla prima gara di aver trovato questa situazione, che è sempre molto importante per arrivare a un titolo. Direttore, ci torniamo sulle gerarchie interne perché è un aspetto molto interessante e bisogna capire anche quanto inciderà poi nel prosieguo del mondiale. Volevo chiederle se determinante forse è stata per la Ferrari la scelta di abbandonare lo sviluppo della sfortunatissima F60 dell'anno scorso a metà stagione, risparmiando soldi e attenzione per puntare forte invece sulla F10. Ma sicuramente è stato un vantaggio, ovviamente, poter avere più tempo per concentrarsi, però vorrei dire che non mi è parsa su questo aspetto la Ferrari così più veloce di almeno due squadre avversarie. La Ferrari è andata benissimo, però vorrei dire che la Red Bull, che è stata in lotta fino all'ultima gara per vincere il titolo, sul piano della prestazione, quindi della macchina, della vettura intesa come tale, non era certamente peggio. La Red Bull andava bene, se, anzi, non è detto che non poteva anche vincere, se non aveva i problemi, non possiamo sapere, perché la storia non si fa con i se e con i ma, però di sicuro era competitiva, di questo l'abbiamo. Il problema della Red Bull di quest'anno è lo stesso problema della Red Bull dell'anno scorso, cioè una macchina estremamente competitiva con dei piloti molto validi, ma con dei problemi di affidabilità più marcati rispetto alla concorrenza, e questo può essere il problema della Red Bull. La stessa McLaren, che comunque ha fatto sviluppi tutto l'anno scorso, si è presentata competitiva. Qui viene il vero problema del Gran Premio che si è evidenziato, cioè Hamilton poteva girare i tempi dei ferraristi, ma in partenza, superato da Rosberg, non era in grado di passare Rosberg, finché, se non c'è stato il classico pit stop che l'ha rimesso davanti, se no sarebbe arrivato sicuramente dietro Rosberg, quindi a 40 secondi dal primo. Per concludere, direttore, siamo già alla vigilia del Gran Premio di Melbourne in Australia, su un circuito totalmente differente rispetto a quello del Bahrain, anche per quanto riguarda i carichi aerodinamici, eccetera. Come si presenta la Ferrari e come si presentano le altre a questo appuntamento importante? Sappiamo quanto sia fondamentale lo sviluppo anche tra un Gran Premio e l'altro. Ecco, secondo lei. Sì, ma dei Gran Premi, diciamo, fuori Europa sarà molto difficile fare sviluppo perché c'è trasferimento, c'è poca possibilità. Poi l'Australia è quasi un cittadino, quindi saranno condizioni diverse. Quello che è importante sarà la qualifica, perché con il pieno di benzina siamo tornati come una volta, quando furono per questo introdotti pit stop, siamo tornati a gare noiosissime, non c'è da fare, il trenino è sicuro. Se non, anche uno che ha un secondo nel piede, che è una cosa incredibile nella formula di oggi per le squadre al vertice, avesse anche un secondo di vantaggio, non supera. Vedremo allora, a partire già da venerdì con le prime prove libere, poi sabato le qualifiche, domenica la gara. Grazie a Carlo Cavicchi, condirettore di Quattro Ruote, ospite di Strade e Motori. Buona domenica, direttore, buon divertimento con la Formula 1. Grazie ancora. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio settimanale, voce permettendo. Grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia. Vi ricordo che sul nostro sito radio24.it potete trovare tutte le nostre trasmissioni ed approfondire gli argomenti che tocchiamo ogni settimana. Se avete voglia di scriverci, fatelo all'indirizzo strade e motori@radio24.it. Strade e Motori torna settimana prossima. A domenica.